adesso io non me ne ricordo, non me lo ricordo il nome, ma il cognome mi ricordo con la V, così è. No, non ho mai avuto nessuna ragazza che si chiama con la V. Non ce n'è più la ragazza? No, adesso ne ho 10. Certo, dice. Un anno. No, non lo sapevo. Capì. Succede nella vita, succede di tutto, capo. Se si tira il caparreggio, io sono qua, io spiegate. Non so se voi mi ascoltate in quelle coordinate, in condizioni precarie, gaipa. Mi sembra a ghiera. Sto tirando questa arietta, vabbè, qua è molto aperto, come, come posto. Lo so, vabbè, cosa ci vuoi fare, purtroppo è così. Stanno fotografiando con questo vaffanculo. Lo stai fotografando? Fotografiando con questo gatto, gatto. Ma tu mi ti fai girare un sangue, mi dici un piede da voi. Cosa? Metto, ma lo sto fotografiando. Sul telefono. Ah, e poi cosa hai di graffiato? Perché ho buttato il cassetto. Sì, c'è un pastorello. Sì, ma che la faccia, Luca. Ti dico il caparrò, cioè, non ci stanno problemi, dai. Già gira, gira, gira, che è pegato. Lasciate 56 mi guarda. Cazzo, non mi ricordo il nome.